Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buon Natale di cuore per me. È un regalo grandissimo poter essere con voi questo giorno speciale, entrare nelle vostre case, sentirmi un po' di famiglia, quindi un'amica. Il Natale è anche questo, è il piacere di condividere con le persone che amiamo il nostro tempo e aprire il nostro cuore. Chissà che cosa state facendo in questo momento, provo a immaginarvi, forse avete già spacchettato i regali o vi state preparando a incontrare parenti, spero non serpenti, amici, oppure siete in macchina, state partendo per raggiungere la vostra famiglia o per regalarvi chissà qualche giorno di vacanza al mare, in montagna, in una città d'arte. In ogni caso, portatemi con voi, vi prego, portateci, non portatemi, perché io non sono sola. Ho qui con me il mio regalo di Natale per voi, un regalo che è fatto di note, di profumi, di parole che arrivano al nostro cuore, attivano emozioni, ricordi. In fondo anche questo fa parte della magia del Natale. L'avete riconosciuta, la portate sicuramente nel cuore, come la porto io, è Astro del Cielo, una canzone che ha più di 200 anni, è stata tradotta e cantata in più di 300 lingue e dialetti del mondo. La versione che state ascoltando è stata composta per noi dal maestro Cacciapaglia, che è il mio primo regalo di Natale per voi. Ciao maestro! Ciao Nicoletta, buon Natale a tutti, che bel regalo che hai fatto anche a me, perché è una bellissima occasione di stare insieme, di dire delle belle cose e sentirle anche, ascoltarle. Una versione che tu hai proprio, come si dice, che scritto, sfornato, non è un panettone, ma è proprio perché, come ti dicevo prima, dura 1:24, qui siamo su Radio 24, a cui la Perfetto. Voglio dedicare. Ma che regalo straordinario, ma i regali non finiscono qua, perché oggi il mio regalo è fatto di note musicali, è fatto di note olfattive, perché il Natale è anche profumo di pino, il profumo del panettone, del pandoro, del sugo che preparava la nostra nonna, ma anche il profumo della cannella, dei mandarini, delle arance. E ho un altro amico qua che ci parlerà del profumo del Natale, che fa parte sempre di questa ricetta della magia del Natale, che è Paolo Vintani, che è un farmacista nella vita ma anche un esperto di fitoterapia, e oggi ci impresterà il suo naso perché i profumi riattivano i ricordi. Grazie dell'invito, buon Natale a tutti, Paolo. Buon Natale Nicoletta, grazie, anche per me è un grande orgoglio essere qui, sì, perché il profumo, l'odore è parte della terapia, è parte di noi stessi, è parte di qualcosa che ci aiuta a stare bene. Non parliamo di guarire oggi, parliamo di stare bene, parleremo di questo. E in questa oretta voglio accompagnarvi e quindi stare bene con voi, con i miei amici, e non sono finiti qua perché non potevo non estendere l'invito ad un amico che io stimo molto e che seguo sempre con grande piacere, che è la persona che non poteva mancare nel nostro Natale, Salvatore Carruba. Ciao! Ciao, buon Natale a tutti, buon Natale naturalmente a tutti i nostri ospiti e ai nostri ascoltatori. Passeremo dalle note musicali, note olfattive, alle parole, ai racconti di Natale. Intorno alla tavola del Natale o mollemente adagiati sul divano, passiamo il Natale, queste feste, a raccontarci di quando eravamo piccoli, della zia che faceva delle cose e poi qualche pettegolezzo. Ma noi vogliamo oggi dare invece le parole a grandi scrittori che hanno raccontato il Natale. E Salvatore, tu mi dicevi ci sono hanno anche per il Natale avuto i suoi sostenitori e i suoi detrattori. Certo, sì, parleremo anche degli antipatizzanti del Natale, ma siccome siamo ancora sotto l'emozione di Asto del Ciel che ha proposto il maestro Cacciapaglia, credo che la cosa migliore sia cominciare dove tutto partì, cioè partì da Betlemme, con un brano che non è quello del Vangelo tradizionale che chi va a messa sentirà, ma che è un brano di un Vangelo apocrifo, cioè di quei Vangeli che non fanno parte del canone ma che spesso hanno avuto, come in questo caso, una importanza molto grande nella storia della Chiesa e anche nella storia della formazione delle tradizioni. Questo è il Vangelo di Giacomo, il clima particolare della notte di Natale, e racconta Giuseppe: ora io, Giuseppe, camminavo e non camminavo, guardai l'aereo e lo vidi colpito da stupore, guardai la volta del cielo e la vidi immobile, gli uccelli del cielo fermi, abbassai lo sguardo al suolo e scorsi per terra un vaso, operai sedevano d'intorno con le mani nel vaso, chi masticava non masticava più, chi prendeva su qualcosa non sollevava più, chi portava la bocca non portava più, i volti di tutti guardavano in alto, ed ecco pecore spinte in avanti, non andavano innanzi ma stavano ferme, il pastore sollevò la mano per percuoterle con il bastone, la mano restò in alto, guardai giù alla corrente del fiume e vidi le bocche dei capretti poste sopra, ma non bevevano, quindi tutto in un istante riprendeva il suo corso. Insomma, questo clima di attesa, il mondo si ferma nell'attesa, credo che sia una delle immagini più tradizionali e anche più suggestive del Natale. Lo stupore, la magia, l'attesa del Natale, maestro. La musica lo interpreta e descrive tutte queste emozioni, queste sensazioni, queste condizioni in cui noi riviviamo il nostro Natale. Beh, il Natale è un momento interiore, un momento in cui ci si ritrova, magari dopo il caos in cui viviamo, insomma tutti siamo molto occupati, ecco, è anche interessante vederlo come uno spazio, è una pausa. Io ho chiesto come regalo di Natale al maestro Cacciapaglia di diventare un po' il nostro DJ delle emozioni natalizie, selezionando alcuni dei suoi brani, facendoci fare una sorta di viaggio che ci dava modo di recuperare anche i profumi, i ricordi del Natale, attivare le nostre emozioni e anche andare a riscoprirle attraverso le letture proposte da Salvatore Carruba. Per cui, maestro, ti lascio la palla. Ti ringrazio, ma io proporrei Oceano, un brano che ho registrato con la Royal Philharmonic Orchestra, e appunto Oceano è acqua e mare, ma anche sono le profondità, no? Parlavamo del Natale, eccolo. Andiamo in profondità, oltre la superficie. Mi chiudo gli occhi e vedo l'oceano, ma la musica di Roberto Cacciapaglia e anche il suo invito a scendere un po' in profondità mi invita, e voglio condividerlo con voi, a pensare ad un Natale in cui ci guardiamo dentro per guardare anche con gli occhi diversi le persone che amiamo e ci stanno intorno. Maestro, la musica ha questo. Pensiamo, sì. Poi a Natale ci attiviamo un po' tutti, ci sentiamo tutti un po' desiderosi di essere più buoni, di fare pace con noi stessi, di essere aperti. Io dico proviamoci, male non fa. la musica penso ci possa aiutare molto, sia individualmente ma anche come condivisione. È un'arte intima e insieme sociale. E a proposito della musica, sì che siamo a Natale, però spesso la musica la usiamo come un salvagente in superficie, forse per non ascoltare il silenzio o noi stessi. Invece dovremmo essere un po' più dei subacquei che vanno nelle profondità di questa arte meravigliosa per raccogliere tutto quello che ci può dare, le cose preziose. Salvatore? Mi ricollega a quello che ha detto il maestro Cacciapaglia e anche al suo brano musicale. Il maestro ha detto che il Natale è un momento interiore. Mi è venuto in mente cosa diceva un presidente americano, non quello felicemente regnante, quale sosteneva che il Natale non è un periodo, ma è uno stato dell'anima, e quindi invitava, e forse questo è l'augurio che ci possiamo fare tutti più importante oggi, quello che questo stato dell'anima appunto perduri lungo tutto l'anno e non si concluda questa sera. Poi abbiamo parlato di oceano e di mare. Mi viene in mente una pagina, un bel racconto di Dino Buzzati. Parleremo dopo di un signore molto popolare per Natale, Mr. Scrooge. Come poteva mancare. Esattamente. Beh, Dino Buzzati fa un seguito della storia di Scrooge. Scrooge rimane cattivo, si trova a New York, individua nella città di New York, la città nella quale in fondo la sua avidità trova maggiore occasione per potersi manifestare ed avere successo. Però è Natale anche a New York. Scrooge non vuole incontrare cattivi spiriti e allora decide di passare il Natale in crociera e si imbarca sulla Michelangelo, la mitica nave da crociera italiana che furoreggiava negli anni 60, e dice: vado sulla Michelangelo perché se lì mi trascina, mi perseguiterà qualche spirito, parlerà in italiano e io non capirò nulla. E naturalmente sulla Michelangelo, dice Buzzati, Mr. Scrooge trova uno spirito che gli parla in perfetto inglese pur essendo italiano e gli dà da pensare, da riflettere anche sulla Michelangelo. Bellissimo. Ho lasciato un po' in disparte il mio amico Paolo, ma perché volevo darti un po' tutte le occasioni e le situazioni. Abbiamo parlato di oceano, di profondità, di raccoglimento, di condivisione, di bontà. Siamo andati anche a New York in una versione, insomma, quando il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, perché poi le persone poi si incontrano. Tutto questo trasferiamolo nell'atmosfera del Natale, che ha un'atmosfera anche profumata, perché pensando ai nostri ricordi spesso ci ricordiamo anche di un particolare olfattivo. Profumi che mi vengono in mente sono senz'altro quello dei panettoni che sono sui tavoli delle nostre tavole prima di essere mangiati già qualche giorno prima, i mandarini che il nostro Signore dona, tutti i frutti ricchi di vitamina C, mandarini, aranci che pervadono la casa, a volte anche bucce di mandarino intorno al presepio, e tutti gli aromi che ricorda l'anice stellato, che poi ricorda una stella fondamentalmente. Allora, la parola a questo punto ritorna al nostro maestro Cacciapaglia in questa lista di brani che ha selezionato per noi, per festeggiare insieme a noi il Natale, per attivare i nostri ricordi, per rispolverare un po' anche quella parte nostra di bambino e dello stupore che forse con gli anni abbiamo perso, ma che è facile recuperare. Magari tutto questo parte dall'ascolto di un brano. Sicuramente è facile recuperare, anche perché penso che il sole dentro di noi è sempre perenne. A volte ci sono le nuvole, però le nuvole poi svaniscono e tutto rimane. E io propongo, dopo le profondità dell'oceano, Canone degli spazi, perché il Natale è anche spazio interiore, ma anche verso gli altri. Condivisione. Thank you. Buon Natale, restate con me, restate con gli amici che oggi ho invitato per fare, attraverso le note del maestro Cacciapaglia, i profumi che ci descrive, ci fa sentire e recuperare Paolo Vintani, le parole, i brani scelti da Salvatore Carrubo, un viaggio per ritrovare un po' il nostro Natale, oppure per scoprire il Natale che ci tocca nel cuore e che vogliamo condividere con le persone che ci stanno vicine. Salvatore, la nostra tappa prosegue? E prosegue partendo dalla parola che ha usato il maestro Cacciapaglia. Ha parlato di condivisione, allora vi leggo le poche righe di un autore di cui quest'anno abbiamo ricordato il 150esimo della nascita, un grande autore italiano, Luigi Pirandello, che pochi giorni dopo il Natale del 1896 scrive queste righe. Era festa dovunque, in ogni chiesa, in ogni casa, intorno al ceppo, lassù, innanzi a un presepe, laggiù, noti volti tra ignoti riuniti in lieta cena, erano canti sacri, suoni di zampogna, gridi di fanciulli esultanti, contese di giocatori, e le vie delle città grandi e piccole, dei villaggi, dei borghi alpestri o marini erano deserte nella rigida notte. E mi pareva di andare frettoloso per quelle vie, da questa casa a quella, per godere della raccolta festa degli altri. Mi trattenevo un poco in ognuna, poi auguravo buon Natale e sparivo. Vedo che hai fatto centro, Salvatore, perché il maestro è entusiasta. Sono un po' perché Pirandello. Estasiato. La scelta, ma anche devo dire come posso dire interpreta. Grazie. Anche perché grazie. Siamo qua, c'è un fronte siciliano, perché da Salvatore a me, maestro Cacciapaglia, l'unico però, del nord, quindi che ci però potrò. Il dottor Vintani ha citato un uso tradizionale della Sicilia, cioè di mettere i mandarini nel presepio, cosa che io seguo pedissequamente. Ci vogliono solo i mandarini o possiamo, se non ci abbiamo le il mandarino, agrumi, le bucce di agrumi in genere? Cioè, quello di mandarino è classico appunto dei paesi del Mediterraneo ed è oltre che profumato aiuta, è un segno di luce, e di richiamo al presepio, di osservarlo. È buono e fa bene il mandarino adesso, soprattutto lo dico a chi si starà avvicinando, spiluccando qua e là, perché alla tavola del Natale, che sarà una tavola molto generosa, poi ecco, fermatevi alla fine, mandarini prima di così fare l'assalto a panettoni e pandoro. Cosa dici, Paolo? Assolutamente sì, come anche gli aranci. Io ricordo un'insalata di finocchi e aranci, che è un'altra tradizione siciliana, che è squisita, che accompagna la faraona che normalmente diamo a Natale. E mi ricordo i profumi della faraona di alloro e ginepro, anche questi due grandi aromi che non sono messi a caso, no. Ecco, perché sono anche dalla combinazione di più aromi nascono delle alchimie, Paolo. Nascono delle alchimie olfattive, questo senz'altro, visive, perché le nostre mamme le mettevano interi, quindi vedevi la foglia di alloro con queste bacche di ginepro un po' misteriose ma accattivanti, e senz'altro hanno un'azione di carattere digestivo e servono moltissimo per il nostro intestino, specie i problemi intestinali di questi giorni. Questo, attenzione, cioè, però non basta la foglia di alloro, non è che fate tutto due volte perché intanto c'era l'alloro. Ogni tanto fermiamoci, come dice un amico della nostra trasmissione, il dottor Speciani, con cui ci siamo proprio sentite ieri, ricordiamoci che la posata va posata. Ma a proposito di alloro, possiamo anche usare le foglie per preparare una tisana, direi che è quello che ci vuole, perché l'alloro, lo sappiamo, ce l'hanno insegnato anche le nostre nonne, ha un effetto rilassante ma anche digestivo, e quindi è l'ideale in questo periodo. Io metto in un pentolino a freddo, così mi hanno insegnato, l'acqua e le foglie d'alloro, poi porto a bollore una decina di minuti, 10-12 minuti, poi spengo, copro, lascio intiepidire, filtro e aggiungo anche un po' di limone. Se invece voglio un effetto un po' più tonico, insieme all'alloro metto anche un po' di zenzero ben pulito, perché il sapore sicuramente ci guadagna. A me piace tantissimo lo zenzero, anche candito, ma questa è un'altra cosa. Comunque lo zenzero ha una marcia in più in caso di influenza, tosse, mal di gola, raffreddore, quindi malanni di stagione, perché questo rizoma oltre ad avere proprietà digestive e antidolorifiche, ha anche proprietà antinfiammatorie. Quindi vi ho dato questa ricettina anche per la tisana delle feste, le tisane delle feste. Su questa base poi potete aggiungere le vostre varianti e magari potete condividerle con noi. Facciamo il quaderno della tisana, dai. Adesso però ci fermiamo, a proposito di tisana, ci fermiamo, facciamo una pausa, torniamo subito dopo insieme al mio trio di amici. Obiettivo salute. Siamo tornati veloci e vedo che Salvatore è già pronto, Salvatore Carruba, perché dove ci porti? Perché ti volevo fare i complimenti, perché riesci sempre a darci la palla reciprocamente in maniera straordinaria. Allora, questo è il tuo regalo di Natale per me? Questo è il mio. Lo sai che io adoro gli uomini bugiardi, soprattutto a Natale, soprattutto in trasmissione. Grazie. Grazie, allora, di cuore. Il dottor Vintani, oltre che a parlare di mandarini nel presepio, per cui ho guadagnato molti punti, ha parlato adesso della preparazione di alcuni cibi e di sapori natalizi. Allora, mi è venuta in mente una bellissima poesia che scrive Charles Dickens nel Circolo Pickwick, ed è una poesia che recita uno dei protagonisti, e cioè il signor Wardle, il quale, mentre cuoce il vino cotto, e qui c'è tutta la descrizione dei profumi che si mettono nel vino cotto, recita una poesia dalle quali traggo queste strofe. Ma triste è vedere le foglie cadere dall'albero morte per terra, né dunque mi piace d'autunno la pace che troppa mestizia ci reca. Ma levo il mio canto natale al tuo incanto, a te, fido amico e sincero, e grido di cuore tre viva in tuo onore, robusto ed antico vegliardo. L'attendo giù l'ivo, saluto il suo arrivo, di gioia si accende il suo sguardo, di pace serena s'allieta la cena, e poi ci lasciamo d'amici. Non egli nasconde le rughe profonde che il tempo ha scavato sul viso, son nobili segni di cui sono degni i lupi di mare più prodi. Perciò canto ancora con voce sonora e l'eco trascorre sui muri. E viva Natale, monarca assoluto dell'anno. Paolo, il vino è fantastico perché mi ha dato la palla, senza incentivare a bere troppo, perché sarebbe... Sì, ma il vin cotto, il vin cotto è quasi medicamentoso, assolutamente, sbaglio. È il nostro vin brûlé, è il ricco di aromi proprio, riscalda nel cuore, riscalda fisicamente e ci fornisce di tante sostanze nutrizionistiche e salutistiche. Quindi, per chi adesso ci sta seguendo, ma magari un po' raffreddato, un po' acciaccato, perché l'influenza, lo sappiamo, non risparmia neanche a Natale, un consiglio di Paolo Vintani per sfruttare magari l'azione terapeutica e curativa, non dico del vin cotto, ma di alcune erbe che potrebbe magari utilizzare per preparare delle tisane o qualche rimedio per così prepararci a uscire rapidamente da questa forma influenzale. Impariamo a curarci, la velocità non è mezzo di terapia, solo la preparazione della tisana, e lascio gli ascoltatori inventare o ascoltare, dalla tisana di eucalipto alla tisana di malva, alla tisana di borraggio, piuttosto di farfara per la tosse, ma il prepararlo, il rito di prepararlo nel giorno di Natale, anche se purtroppo si è un po' ammalati, ci aiuta già mezzi a guarire. Allora, e noi ritorniamo alle note del maestro Cacciapaglia, che... Ma io proporrei, visto che questo, si parla... A questo siamo a un punto importante del nostro cammino natalizio. Io penso che il cammino natalizio può essere interessante nel senso che è al di là del tempo. Stavo pensando che in fondo i Natali, la cronologia passa un po', no? Sono sempre nello stesso momento, no? Io proporrei quarto tempo, proprio per andare al di là di passato, presente, futuro, e trovare quell'attimo magico che viviamo nel Natale. Buon Natale, ecco, Atlantico da quarto tempo. l'altro, il quarto tempo può essere anche un invito a tornare nelle situazioni e a provare a riviverle. Sai perché te lo chiedo? Perché ci sono tante persone che, soprattutto in occasione di queste feste in cui si devono comunque confrontare con dei parenti, con delle situazioni familiari che sono state un po' tese, hanno un po' paura di affrontarle e quindi tendono a sfuggire via o a mantenersi proprio con un certo distacco. Invece potrebbe essere questo, e prendo spunto da quarto tempo, cioè una ritornare nelle situazioni e provare a reinterpretarle in modo nuovo, darsi una seconda chance. Questo a Natale possiamo regalarcelo. Certamente, io penso vedere il mondo con occhi diversi, poi cambia tutto, no? Come cambia il nostro sguardo intorno a noi, cambia il mondo. Quindi penso che sia, le tensioni devono essere abbandonate e dobbiamo invece aprirci. E l'apertura, la condivisione non può mai essere negativa. Salvatore, tu mi avevi detto che avresti in questa nostra chiacchierata natalizia, la tavola non ce l'abbiamo, però adesso prima della fine qualche cosa tiriamo fuori, un brindisi natalizio, una fetta di panettone. Avremmo così navigato e sentito anche delle posizioni differenti nei confronti del Natale, quasi un altro quarto tempo, se vogliamo. Sì, ci sono gli antipatizzanti del Natale, ecco. Come dicevo prima, anche ora oggi escono dei libri per chi non tollera il Natale, ma io voglio riferirmi soprattutto a due titoli. Il primo è un titolo relativamente recente di uno scrittore inglese che si chiama Michael Curtin, che ha scritto nel 1989 un libro che si chiama La Lega Antinatale, un gruppo di inglesi mezzi beoni che appunto si dedicano con scientifica precisione a demolire il mito del Natale. E poi c'è lui, il signor Scrooge, quello di cui ho già parlato. Perché i racconti di Natale di Dickens sono una lettura capitale nel Natale, anzi molti osservano che senza Dickens e senza Scrooge non ci sarebbe il significato del Natale che abbiamo noi oggi. Questo, tra l'altro, quindi è un po' l'uomo che ha inventato il Natale in qualche modo. Sì, infatti c'è un film che sta andando proprio in questi giorni nelle sale che si intitola così: Dickens, l'uomo che inventò il Natale. Allora per ricordarvi il carattere acido di questo Scrooge, vi leggo alcune righe della sua immortale ballata di Natale, in cui appunto lo Scrooge ancora cattivo incontra il simpatico nipote, il quale lo incontra e gli dice: Buon Natale, zio, Dio vi protegga. E quello gli risponde: Bah, disse Scrooge, stupidaggini. Natale una stupidaggine, zio, disse il nipote di Scrooge. Sono sicuro che non pensi una cosa simile. Certo che la penso, disse Scrooge. Buon Natale. Che diritto hai tu di essere allegro? Che ragione hai tu di essere allegro? Sei povero abbastanza. Andiamo via, rispose allegro il nipote. Che diritto hai tu di essere triste? Che ragione hai di essere accigliato? Sei ricco abbastanza. Bah, rispose Scrooge, stupidaggini. Non ti arrabbiare, zio, disse il nipote. Come potrei non arrabbiarmi, rispose lo zio, quando vivo in un mondo di cretini come questo? Buon Natale, in giro per augurare buon Natale. Che cos'è il Natale per te se non il momento in cui devi pagare dei conti senza avere i denari? Il momento in cui ti trovi più vecchio di un anno e non più ricco di un'ora. Tutti gli idioti che vanno in giro con Buon Natale sulle labbra dovrebbero essere fatti bollire insieme con loro pudding e sepolti con una spina di aghifoglio nel cuore. E con questo passo la parola al dottor Ventani. Sì, per una ricetta o per rosolare? No, per rosolare. Ecco, perché bisogna vedere se ci sentiamo più zio o più nipote. Magari convivono con noi, dentro di noi, queste due anime. Insomma, oggi cerchiamo di svoltare. Paolo. Ma io vorrei prendere spunto dal malato e che cos'è la malattia. Cioè, a Natale, tra i vari profumi, ce ne sentiamo tanto quelli di eucalipto, di pino, che per i fumenti, i vecchi cari fumenti, perché immancabilmente c'è qualcuno di ammalato. Ecco, forse tutto sommato il malato non è uno da escludere, ma da inglobare. Ecco, nell'atmosfera natalizia non può mancare il malato. Insieme alle palline di Natale, palline, quello il che è un po' di raffreddore. Bravo. Prendiamolo come profumo gradevole, ecco. Teniamolo così. Io, diciamo, si parla di Natale, stavo pensando, ho portato un pezzo che è dall'albero della vita, non è l'albero di Natale, ma può anche essere quest'albero. Ma facciamole sempre queste puntate, dove voi venite e portate le cose. Bene, così per me è uno stupore. Continua, andiamo. Sull'albero della vita, o sull'albero di Natale, mi viene in mente un bellissimo racconto di Vladimir Nabokov che si intitola Racconto di Natale, nel quale si parla di uno scrittore che, siamo nella Russia comunista, dove il Natale non si festeggia naturalmente, che viene comunque richiesto di scrivere una novella, probabilmente per irridere il Natale, e a questo giovane scrittore viene in mente di partire dagli alberi che i borghesi, come li chiama lui, decaduti e terrorizzati, rabbiosi, condannati, cercano comunque di fare appunto per ricordare il Natale. Naturalmente questi alberelli sono degli alberelli clandestini e quindi li chiama Nabokov, è lo scrittore, dei miseri alberelli. A voi viene in mente qualcosa? A me è venuto in mente lo spelacchio. Bravo, lo spelacchio. Visto. Invece però mi è venuto anche in mente quell'albero magnifico che noi invece abbiamo, altro che spelacchio, il nostro, 30 e più metri, tutto addobbato. Ho anche fatto un video in cui si accende, anzi non l'ho fatto io in realtà, devo essere buona, l'ha fatto una mia amica e me l'ha girato, magari lo rigiriamo anche noi. Adesso non giriamo, ci fermiamo, facciamo una pausa, torniamo subito dopo insieme con il mio trio natalizio, Salvatore Carruba, Roberto Cacciapaglia, Paolo Vintani. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta... Obiettivo Salute. Siamo tornati, sono tornata con il mio trio natalizio. Adesso io ho pensato, li chiudo qua dentro e non li lascio più fino alla Befana, quando io avrò da fare. Ma abbiamo, stiamo chiacchierando intorno al Natale, l'albero della vita, l'albero di Natale, la Russia, e vedo che alla parola Russia il maestro Cacciapaglia si è subito attivato. Vedo, Roberto, che non ti sfugge niente. No, con la, faccio un po' la visione quella laterale. No, siccome sono, tra poco parto per la Russia, perché ho 8 date in Russia, parto dal Conservatorio di Mosca, poi San Pietroburgo e poi arrivo sino in Siberia a 45 gradi sotto zero. E l'anno scorso, perché è la quarta volta che torno, mi è venuto in mente che consiglierei un ristorante a San Pietroburgo in tema di letteratura che si chiama Idiot, l'idiota, e che è stato aperto e gestito da Dostoevsky, che mi è sembrato, quando me l'hanno detto, una cosa curiosa. Straordinaria. Si mangia anche benissimo, per cui lo consiglio. E Salvatore, tu ci sei mai stato? No, non ci sono stato, confesso. Ai tempi di Dostoevsky ancora non c'era. Ma scusa, che... ma è ancora aperto, è ancora aperto. Ma noi dalla Russia volevo parlava della Siberia, parlava della Russia, il profumo del freddo. Il freddo ha un suo profumo. Noi sentiamo lo smog qua a Milano e ci pizzica un po' il naso. Il profumo del pulito. Ecco, però penso anche al profumo della neve. Chissà quanti dei nostri amici magari stanno dirigendosi verso una località sciistica e quindi sentiranno quel profumo alla neve, quella del mattino. Paolo. Sì, io credo che sia più che altro le nostre percezioni che variano dal grado di vascolarizzazione che ha il nostro naso, per cui ascoltiamo di più. Paracelso diceva: ascolta il tuo corpo, ascolta la tua natura. Mi viene in mente, parlando dell'albero, quello che diceva Tolkien, quindi l'autore del Signore degli Anelli: le radici non gelano mai, perché riscoprire le radici, le tradizioni, perché ma qua siamo alti, ragazzi, siamo alti, perché e la neve ci purifica come visione. E però devo fare ancora farmacista: attenzione agli occhi, attenzione alla pelle, e certo, quello consentitemelo. E poi i bambini vogliono sempre mangiare anche la neve, assaggiare la neve. Lo facevate quando eravate piccoli, ecco, Salvatore, noi che siamo siculi non tanto, non la vedevamo, ma io poi sono andata a vivere a Torino. Infatti sono emigrato per mangiare la neve. Per mangiare la neve almeno a Natale. Allora, noi continuiamo con una seconda. Navigazione, poi quello che dicevi tu prima, perché per vedere il mondo una seconda volta con occhi diversi. Guardare la vita con occhi diversi, guardare il Natale con occhi diversi. Maestri, i bambini sono maestri in questo, e probabilmente questa è la ragione per cui il Natale che noi trascorriamo con dei bambini, le loro risate, i loro giochi, quello che ci raccontano, a volte sono dei racconti fantastici. È terapeutico, ci insegna un po' una strada, Salvatore, ci insegna a guardare cose che forse a cui non prestiamo più attenzione, ma che progressivamente ci hanno tolto, ma che noi possiamo riscoprire. Sì, per questo è importante mantenere un po' il mito o alcuni miti che si legano al Natale, compreso quello, diciamo anche laico, di Babbo Natale. Voglio ricordare a questo proposito un famoso episodio nel giornalismo mondiale. Nel 1897 una bambina americana che si chiamava Virginia O'Hallon chiede al papà se Babbo Natale esista o meno, e il papà gli dice: scrivi al giornale. Lei scrive una lettera con questa domanda al New York Sun. Le risponde uno dei direttori, Francis Farcellus Church, e con un editoriale che da allora è rimasto l'editoriale più riprodotto nella storia del giornalismo, perché il direttore risponde a Virginia con questo articolo che si intitola Yes Virginia, there is a Santa Claus. E scrive la ragazzina: non credere in Babbo Natale è come non credere alle fate. Puoi anche fare chiedere a tuo padre che mandi delle persone a tenere d'occhio tutti i comignoli del mondo per vederlo. Se anche nessuno lo vedesse venire giù, che cosa avrebbero provato? Nessuno vede Babbo Natale, ma non significa che non esiste. Le cose più vere del mondo sono proprio quelle che né i bimbi né i grandi riescono a vedere. Hai mai visto le fate ballare sul prato? Naturalmente no, ma questa non è la prova che non siano veramente lì. Nessuno può concepire o immaginare tutte le meraviglie del mondo che non si possono vedere. Roberto, stavo dicendo, maestro. Eppure Roberto. Roberto, maestro, anzi, Roberto Calciapaglia. Chissà che bambino eri tu. Ma un bambino che non voleva studiare pianoforte perché guardava dalla finestra gli amici che giocavano a pallone e invece di fare gli esercizi volevo andare a giocare. Ma però il Natale mi ha sempre affascinato. Io penso quello che diceva Salvatore Caruba è una cosa molto bella, perché anche la musica non si vede, per esempio. Però ci fa vedere delle cose, ci fa vedere delle cose che a volte non vediamo. È proprio questa stretta relazione che anche i ricercatori stanno studiando tra effetti della musica nel nostro cervello: si illuminano delle zone, se ne spengono altre. È straordinario che adesso la scienza vada a indagare, soprattutto le neuroscienze, di questa relazione così stretta che c'è sin dalla notte dei tempi e che è ancora lascia ancora degli spazi inesplorati attualmente per la scienza. Quindi ci sarà da lavorare, ci sarà da farsi studiare, soprattutto ad ascoltare senza porre la mente, che giudica sempre, in mezzo, no? La musica e il suono hanno questo potere di attraversare lo spazio, di arrivare, di superare tutti gli ostacoli, quelli della mente, e magari in una condizione particolare trovare una dimensione di pace e bellezza oggi, il giorno di Natale, qui nella nostra dimensione. Se provassimo a non aspettarci sempre una risposta alle domande, forse riusciremmo a raggiungere veramente la percezione, come diceva William Blake, il massaggio, i profumi. Stiamo facendo una sperimentazione ayurvedica con la medicina indiana su bambini malati di distrofia muscolare. Non guariscono dalla distrofia, ma stanno meglio psicologicamente ed emotivamente, perché non dimentichiamo che tutte le medicine tradizionali parlano sì di corpo, sì di psiche, ma anche di emozione, che è la terza parte, che è l'anima. E la terza parte è questa delle emozioni, è quella che noi siamo arrivate, le abbiamo un po' solleticate, siamo andate a risvegliarle, le abbiamo degustate con le note musicali, con i brani di Roberto Calciapaglia, con i brani che ha selezionato per noi Salvatore Carruba, che ne ha ancora un altro, perché siamo quasi alla frutta, come si dice, ma al dolce, direi al dolce. E allora prendiamo una pagina ironica di un grande umorista americano di origine greca, David Sedaris, il quale scrive: se praticata correttamente, scrive in una novella natalizia, se praticata correttamente la generosità può indurre un senso di vergogna, di inadeguatezza e addirittura di invidia, solo per fare alcuni esempi. La cosa più importante è conservare una prova scritta o visiva della donazione, altrimenti tanto vale non farla nemmeno. Doug Cunningham direbbe che gli ho rubato anche questa massima, ma sono quasi certo di averla letta in un manuale del fai da te fiscale. Torniamo al target di Sole 24 Ore. Lo scarichi. Vedi, noi siamo alla fine, anche a Natale si finisce col parlare di norme e tributi. Vogliamo chiudere con un altro brano, che per chiudere, come si dice, in bellezza, al dolce. Io ho detto alla frutta, che è anche un'espressione che si dice quando uno è un po' bollito, ma noi non siamo assolutamente bolliti, anzi, dopo questa trasmissione in cui i miei ragazzi ci hanno così fatto navigare in questo mondo del Natale con strade tra loro apparentemente differenti, ma che poi abbiamo visto si alimentano una con l'altra, devo dire che sono piena di energia per sedermi al tavolo del Natale. Ma prima siamo al dolce, in chiusura. Ma forse un tributo alla generosità, che parlavate appunto giusto, che mi sembra veramente un aspetto molto importante. Oggi è il giorno di Natale e soprattutto la musica unisce, e questa è la cosa più bella, no? Essere uniti e quindi generosi verso l'altro. Siamo generosi anche con noi stessi, dobbiamo, certo, esserlo, perché siamo a Natale, mettiamoci questa un po', dobbiamo volerci un pochino più bene, quindi un po' di accettazione, un po' di autoironia, che dici? Dico di sì, però volere la felicità degli altri credo che è un mezzo per avere la propria felicità. Siamo tutti d'accordo, allora andiamo. Figlia del cielo. Grazie, grazie per avermi seguito, per averci seguito, per essere stati con noi. Grazie, buon Natale di cuore, non è una frase fatta, è davvero così. Io spero che queste parole, questi suoni, queste nostre chiacchierata con amici siano entrate nelle vostre case, abbiano acceso dei pensieri, abbiano così accarezzato il vostro cuore. Questo era un po' l'obiettivo di questa trasmissione, speriamo di aver fatto, se non c'entro, di esserci andata vicino. Grazie Salvatore Carruba. Grazie a te, buon Natale. Maestro. Grazie Nicoletta e grazie a tutti voi e anche agli ascoltatori. È stato veramente un momento magico. Grazie. Paolo, buon grazie. Natale. Grazie a voi, un grazie alla rosa, che forse è il profumo più inebriante e avvolgente di tutti. Per oggi, cari amici e tutti, abbiamo festeggiato insieme un pezzettino del nostro Natale. Ringrazio i miei amici, ringrazio voi che mi avete ascoltato, siete stati in nostra compagnia, ma vi do appuntamento a domani. E certo, non è mica finita qua, c'è Santo Stefano, ancora domani insieme a me, insieme a tanti ospiti, faremo un pezzetto di festa insieme. Quindi io vi auguro un ottimo Natale. Continuate così, state bene, abbracciatevi, baciatevi, festeggiate, vogliatevi bene e ritornate domani insieme a me. Io vi aspetto. Un abbraccio forte e stretto dalla vostra Nicoletta.